Questo convegno ha un percorso alle spalle. C'è stato l'anno scorso, in autunno, un altro convegno che in qualche modo ha posto le basi per il dibattito di quello attuale. Il convegno si chiamava Città, spazi abbandonati, autogestione. Ne è uscito anche un ebook con tutti insomma, i contributi, che è stato pubblicato su infoout.org. E quel convegno nasceva in qualche modo fra le varie attività che vennero organizzate anche diciamo come risposta allo sgombero del laboratorio Crash l'anno scorso. L'idea era appunto di mettere in campo insomma una riflessione sulla città che cambia, sulle sue trasformazioni, sui suoi conflitti, sulle sue linee di mutazione, che appunto a partire dallo spunto diciamo dello sgombro di Crash aveva portato a riflettere su tutta una serie di nodi, di periferie che cambiano, di assetti finanziari che acquistano parti di città, di piani di sviluppo eccetera eccetera. Quindi questo nuovo convegno in qualche modo appunto si pone all'interno di questo tipo di sviluppo e siamo insomma molto contenti di poterlo organizzare all'interno del nuovo spazio occupato. L'idea appunto è quella di guardare con un punto di vista diciamo così critico e eterogeneo a come appunto cambiano le città oggi. Abbiamo provato a usare questa idea, questo concetto di città globalizzata per intendere un po' catturare tutta quella serie di tratti comuni, di dinamiche che stanno cambiando appunto le città un po' a tutte le latitudini. Crediamo che Bologna a questo punto di vista sia piuttosto emblematica negli ultimi anni, se pensiamo ai processi di turismo, al ruolo di Airbnb, al progetto come FICO, tutti quei progetti di infrastrutturazione del territorio che, come per esempio quel caso dell'aeroporto, lo scalo Ryanair, stanno facendo affluire molti turisti, anche la gentrification, eccetera, eccetera. Ecco un po' guardare come questi fenomeni si sviluppano su scala planetaria, diciamo, e al contempo, diciamo, questa è l'altra faccia del convegno, invece provare a guardare un po', come dire, abbiamo usato questo termine, on the ground, ossia come poter invece in maniera situata, localizzata, territoriale, poter fare inchieste, poter fare ricerca, potersi cogliere come queste trasformazioni poi concretamente sul terreno vanno a incidere e a concretizzarsi, materializzarsi. Quindi ecco, queste due facce sono quelle che ci interessa un po' analizzare in questi due giorni di convegno, appunto i processi abbiamo definito transurbani, ossia appunto che si riproducono in tutte le città fino a rendere tutte le città globalizzate, e dall'altro lato appunto una ricerca, uno studio, un'inchiesta su come materialmente e in maniera situata questi fenomeni si definiscono. Questi due giorni c'è un programma molto ricco, e una cosa che colpisce è che tra i relatori, gli ospiti, gli invitati non ci sono solo persone vicine a movimenti sociali ma anche del mondo accademico. Sì, l'idea è proprio quello di provare in qualche modo ad affiancare punti di vista diciamo così differenti, esperienze, percorsi fra loro appunto differenti. Quindi come giustamente dicevi, se ci sono varie realtà, esperienze stati occupati, poi gestiti da varie parti d'Italia che verranno a confrontarsi e portare un po' il loro punto di vista su come le loro città stanno modificando, quali tipi di conflitti si aprono in questo nuovo scenario, quindi da Torino a Palermo, passando per Roma e Milano, anche appunto molti docenti di anche qui di varie città d'Italia parteciperanno, prenderanno parte, costruiranno questo convegno, e crediamo che siano in qualche modo sicuramente un qualcosa di sperimentale, ma anche un punto a favore di questa iniziativa, proprio questo tentare di ibridare, di accostare questi due ambiti, quindi un ambito diciamo militante e un ambito di ricerca universitaria. Un po' sicuramente una sfida insomma che abbiamo messo in campo da qualche mese, appunto come anche nel convegno, nell'ebook che citavo prima, che crediamo possa essere a suo modo diciamo così arricchente per entrambi questi tra virgolette mondi, quello della ricerca universitaria e quello delle lotte sociali, che appunto in questi due giorni potranno trovare un primo momento piuttosto significativo. Il programma insomma di convegno si trova sia sul sito www.infoout.org, oppure si può cercare diciamo sul profilo Facebook del laboratorio Crash. Sono due giornate, la prima chiamata Arte e Politica, quindi ci saranno proiezioni di video, un workshop sulla fotografia della città che cambia, ci saranno dei reading e ci sarà diciamo un dibattito appunto di tipo politico con vari centri sociali coordinati dal dibattito coordinato da Emilio Quadrelli, mentre il secondo giorno ci sono due appuntamenti, uno alle 2:30 e uno alle 17:00, con due diciamo tavoli rotondi di dibattiti dove una decina, dottrina, anzi relatori per ogni sessione appunto discuteranno un po' dei due nodi che cui facevo riferimento prima, quindi piano diciamo transnazionale, trasformazione urbana e analisi situate. Quindi questi insomma appunto sono i due momenti della seconda giornata. In entrambe le giornate insomma ci saranno poi cene e aperitivi e cene e un po' di musica la sera.